Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Amicizia e innamoramento gay in chat. Quanto segue mira a chiarire alcuni punti focali dei rapporti virtuali, chat, email e forum, che possono crearsi tra ragazzi gay. Sulla definizione dell'amore e dell'amicizia in termini generali sono stati scritti moltissimi libri e non è mia intenzione discutere dei massimi sistemi. Ma se alla parola amore si vuole dare una connotazione che non sia eccessivamente astratta, si deve presupporre che un innamoramento non si possa ridurre ad un'affinità intellettuale o una condivisione di valori morali, ma che, per parlare di innamoramento, sia necessario un coinvolgimento concreto più o meno profondo della sessualità. A questo punto un'osservazione d'obbligo. Quando nella vita reale un ragazzo gay si innamora di un altro ragazzo, l'innamoramento non parte dai livelli intellettuali o dalle possibili affinità elettive, ma dall'attrazione fisica, ossia da tutto un insieme di fattori che dipendono dalla fisicità dell'altro: il sorriso, la prestanza fisica, la voce, gli atteggiamenti corporei, la tendenza a un comportamento più o meno seduttivo. Questo è talmente vero che spessissimo i ragazzi gay si innamorano di ragazzi etero, lontanissimi da loro sotto ogni aspetto, ma capaci di incarnare fisicamente il loro ragazzo ideale. Se un ragazzo ci appare fisicamente attraente, allora cominciamo a farci delle domande su di lui, a volere cercare una prossimità anche in termini di dialogo. In pratica ci interessiamo a quel ragazzo. Questo meccanismo dell'innamoramento, che è tipico della vita reale, non si può realizzare attraverso internet, dove tutto resta comunque staccato dalla dimensione fisica. In queste situazioni interviene un meccanismo proiettivo che ci fa immaginare il ragazzo col quale stiamo parlando in chat secondo le nostre categorie. Mi fermo un attimo a chiarire che cosa sia un meccanismo proiettivo e quanto possa essere condizionante partendo da un esempio concreto. Ho inserito in un sito che appare per ogni altro verso di orientamento etero al 100% una storia non sessualmente connotata, cioè una storia che non presenta nel testo nessun elemento che permetta di chiarire con certezza se uno dei protagonisti sia un ragazzo o una ragazza, perché mancano i pronomi come lui o lei e mancano i participi passati o gli aggettivi concordati al maschile o al femminile. Il testo quindi di per sé è assolutamente neutro. Bene, tutti i lettori di quel sito, sottolineo che si trattava di un sito etero, senza nessuna eccezione hanno letto la storia come la storia di una ragazza che ha due ragazzi che la desiderano entrambi. Quando invece quella storia viene letta da un ragazzo gay, l'interpretazione non è affatto così automatica e il ragazzo gay arriva abbastanza facilmente a notare che il testo non è sessualmente connotato, cosa che in un ragazzo etero sfugge invece pressoché sempre. Su questa base si possono costruire, e di fatto si costruiscono, dei test proiettivi per la determinazione dell'orientamento sessuale che hanno anche una discreta affidabilità. La lettura proiettiva è in fondo la ragione del fascino della letteratura, in particolare della poesia in grado minore del cinema, perché noi ci proiettiamo nelle vicende e le interpretiamo secondo il nostro vissuto. Uno scambio di mail, una conversazione in chat o un dialogo su un forum creano un testo. Anzi, costruiscono un testo a quattro mani. Quel testo ha le caratteristiche della letteratura, ancora più accentuate dal fatto che è costruito a quattro mani, è cioè il luogo di elezione per le letture proiettive. Ma mentre nella lettura proiettiva di un libro non si mira alla costruzione di un rapporto interpersonale e tutto resta all'interno della mente del lettore, negli scambi via internet la tendenza proiettiva deve prima o poi fare i conti col fatto che dall'altra parte c'è un altro ragazzo con le sue proiezioni sulla stessa conversazione. C'è in buona sostanza il rischio dell'equivoco, aggravato dal fatto che molte conversazioni in chat restano a livelli estremamente sublimati e simbolici e quindi estremamente aperti ad interpretazioni proiettive. L'instaurazione di meccanismi proiettivi nei contatti via internet può essere così determinante da portare addirittura a mettere da parte l'idea di una conoscenza personale tra i due interlocutori che potrebbe interrompere o distruggere il meccanismo proiettivo che di per sé è almeno apparentemente gratificante. Aggiungo che spesso, nei colloqui in chat tra ragazzi gay, è comune il meccanismo della cosiddetta deriva del linguaggio amoroso, cioè del progressivo e automatico lasciarsi andare ad un linguaggio che assomiglia sempre di più ad un linguaggio amoroso. Questo significa che non è affatto raro che finiscano per parlare come due innamorati, due ragazzi che non si sono mai incontrati di persona. L'investimento affettivo in questi meccanismi è spesso molto alto e la dimensione proiettiva è tale che il rischio che la conversazione sia solo lo spunto per la costruzione di storie che esistono solo a livello proiettivo è molto concreto. In buona sostanza, ci si crea un interlocutore a nostra misura, completando proiettivamente gli elementi reali, spesso scarsi o di incerto significato, che emergono dal vero dialogo. Questo è tanto vero che si arriva ad innamorarsi di un etero interpretando ogni minimo elemento che non appaia etero al 100% come il segno di una possibile omosessualità, e svalutando invece del tutto tutti quegli elementi, pure ben chiari, che dimostrano che non si tratta affatto di un gay. Ma devo sottolineare che il meccanismo opera anche nei rapporti tra ragazzi gay, cioè tra ragazzi che sanno con certezza che l'altro è gay. Il meccanismo proiettivo giunse al punto di attribuire all'altro una fisicità presupposta, cioè ad incarnarlo in una immagine che rappresenta il nostro ragazzo ideale. Si arriva al punto che l'immagine proiettiva dell'altro viene caricata anche di valenze sessuali e si prova un trasporto sessuale niente affatto superficiale per un ragazzo che non si è mai incontrato. In pratica ci si innamora anche sessualmente di un personaggio che al 90% è creato dalla nostra fantasia proiettiva e gli attribuisce anche una fisicità secondo quello che noi desideriamo. La deriva del linguaggio amoroso fa poi il resto e dà la netta impressione che si stia costruendo una vera storia d'amore. Ma in tutto questo c'è un errore di fondo. In pratica, il meccanismo naturale che porta dall'attrazione fisica all'innamoramento affettivo è del tutto stravolto. Bisogna ricordarsi che per innamorarsi nel senso vero della parola, il coinvolgimento fisico-fisiologico è indispensabile, ma deve essere rivolto ad una persona reale, non ad un'immagine creata dalla fantasia proiettiva. Alcuni surrogati della presenza fisica, come le foto o la videocamera, non possono in nessun modo sostituire la presenza fisica stessa, che è e resta l'elemento necessario dell'innamoramento vero. Intendo dire che senza la presenza fisica e senza un'autentica forma di coinvolgimento fisico-fisiologico non esiste innamoramento. Vorrei mettere in guardia i ragazzi che si conoscono in chat da lasciarsi andare alla deriva del linguaggio amoroso, che non fa che creare aspettative che possono poi essere del tutto distrutte anche da un brevissimo incontro nel quale ci si rende conto che le nostre proiezioni non avevano nulla in comune con la realtà e che il discorso, ma solo il discorso, era andato avanti a ruota libera e ben oltre la realtà. È in genere molto facile lasciarsi andare in chat a grandi discorsi e a dire ti voglio bene e anche ti amo senza che alla base ci sia qualcosa di concreto, ma è molto difficile poi ridimensionare queste affermazioni quando ormai esse hanno creato aspettative consolidate, aspettative che la conoscenza personale diretta ha finito per contraddire. A questo punto, se quando ci si conosce di persona la disillusione è reciproca, tutto sommato il problema si risolve facilmente perché vengono meno contemporaneamente le aspettative da tutte e due le parti. Ma se uno dei due resta disilluso e l'altro invece si sente ancora o addirittura fortemente attratto più di prima, le dissimmetrie diventano molto forti e le situazioni diventano difficili da gestire. In chat o via email, cioè senza la conoscenza personale diretta, è invece possibilissimo e direi veramente poco rischioso creare dei rapporti di amicizia, che sono molto meno condizionati da meccanismi proiettivi rispetto alle possibili storie d'amore. Noto che però la tendenza spontanea dei ragazzi è quella di cercarsi il ragazzo, l'innamorato, piuttosto che uno o più amici veri in chat. Quegli strumenti informatici sono molto più adatti alla creazione e al mantenimento di amicizie che alla creazione di storie d'amore. Come buona norma di prudenza, direi che sarebbe bene riservare discorsi con forte connotazione affettiva solo a persone che si siano effettivamente conosciute anche al di fuori della chat o del forum, cioè che si siano conosciute di persona. E qui interviene una riflessione importante. Incontrarsi in due nella vita reale dopo essersi conosciuti in chat dà a quell'incontro una connotazione affettiva molto forte e lo fa apparire come un passo verso la costruzione di una storia importante e reciproca. È per questo che in genere è meglio costruire rapporti che partano dall'amicizia, dal vedersi in gruppo, cioè da rapporti che non creino troppe aspettative che potrebbero trasformarsi in disillusioni. L'amicizia è sempre e comunque il primo passo. Se la presenza fisica è coinvolgente e incoraggiante, allora può avere senso fare un passo ulteriore, altrimenti l'amicizia resta e non viene compromessa dal fatto che non ne segue una storia con un maggiore coinvolgimento, perché non sono state alimentate aspettative al buio. Vorrei concludere che la rete, usata con la massima prudenza per carità, offre delle possibilità, ma può creare anche delle pesantissime disillusioni e che, se si vuole bene a qualcuno, anche solo come amico, bisogna evitare di illuderlo e di portarlo poi a docce fredde finali che lasciano con un senso di amarezza profonda. Quindi è bene mantenere sempre un atteggiamento di responsabilità e pensare prima alle possibili conseguenze di ciò che si fa o di ciò che si dice. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.